La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, in questo giovedì 10 di dicembre, grazie per l'ascolto, come sempre in diretta in podcast vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it per trasmissioni, proposte, critiche o per venire direttamente in trasmissione a raccontare le vostre storie. E devo dire che la trasmissione di oggi nasce da considerazioni pressoché quotidiane, ma faccio due esempi che riguardano ciò che c'è stamattina sui giornali, che di volta in volta mi pongono sempre di fronte a un interrogativo. In questo paese che passa tra i suoi tanti vanti storici per essere la patria, insomma, del diritto, della legge, della legge, il diritto romano, il codice giustiniano, eccetera, eccetera, tante volte io mi chiedo se non siamo formalisticamente così prigionieri di questa idea deificata del diritto, della legge codificata, di una certa idea di che cosa sia la legge, perché a me piace una legge di modello anglosassone, common law, che viene dalla tradizione. Noi invece siamo figli di una tradizione in cui è lo Stato, quindi il legislatore, il diritto positivo codificato, l'espressione di una volontà etica dello Stato. Ecco, sono proprio due tradizioni diverse. Io sono minoritario, però noi siamo così prigionieri di questo mondo della certezza formale del diritto e della legge, che poi ci troviamo. Faccio due esempi del giorno prima di presentarvi l'ospite e del libro che io vi invito a leggere, perché è un libro che si interroga proprio su caratteristiche e contraddizioni di che cosa voglia dire diritto e legge in un paese come il nostro. Però faccio due esempi di oggi, no? Pensate a tutto quello che sta succedendo sul tema della protesta degli obbligazionisti delle quattro banche, per così dire, tra virgolette, risolte, questo è il termine tecnico che si usa, quelle interessate da una procedura di salvataggio in continuità deliberata per decreto due domeniche fa dal governo, quattro delle banche commissariate della Banca Italia. C'è una polemica mai di questa durezza nella storia italiana tra Banca d'Italia e Unione Europea, che a me lascia incredibilmente perplesso, perché l'Unione Europea secondo me ha ragione a dire che la Banca d'Italia sta mentendo alla luce delle carte che noi conosciamo. E detto tutto questo, si scatena la protesta degli obbligazionisti subordinati di queste quattro banche e la questione diventa: ma alla luce delle norme vigenti nel nostro paese, chi ha sottoscritto una obbligazione subordinata va inteso come un soggetto che, a fronte del fatto che per decreto, seguendo una procedura decisa in Italia, non quella europea, in Italia, viene interessato dal fatto di perdere, partecipare alla perdita degli attivi della banca, e quindi ci rimette i suoi soldi. Secondo le norme vigenti nel nostro paese, è giusto così? Oppure, ipotesi B, quei titoli gli sono stati piazzati e venduti dallo stesso emittente, cioè dalla stessa banca, violando norme esistenti? Questa domanda apparentemente è banale. Nella realtà, fino al primo esempio, è banale neanche per niente, perché l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, la Consob, che dovrebbe vigilare su questo e che ha poteri molto prescrittivi, e la Banca d'Italia dicono che in realtà una violazione non c'è stata, perché basta sottoscrivere i pezzi di carta della MiFID. La MiFID è una direttiva in vigore da anni che fissa le procedure per garantire la piena consapevolezza, l'informazione del rischio che corre l'investitore. Se tu firmi vuol dire che sei consapevole, e loro dicono non c'è stata nessuna violazione, tanto che la Banca d'Italia arriva a dire ieri nella sua audizione al Parlamento che d'ora in poi bisognerà prendere in considerazione l'idea di vendere titoli come le obbligazioni subordinate bancarie più rischiosi, riservandole ai clienti invece istituzionali, agli investitori istituzionali e non ai risparmiatori retail. Peccato, peccato cari ascoltatori, che se voi andate a leggervi le istruzioni Consob in recepimento dell'ESMA, quindi dell'organo europeo che in questi anni ha codificato in maniera più stringente gli obblighi informativi e di cautela che gli emittenti di titoli devono seguire e le banche devono seguire per venderli alla clientela, troverete specificamente a una domanda, dice: ma le obbligazioni subordinate delle banche sono titoli per i quali bisogna seguire una procedura e una profilazione rischiosa oppure no? E la risposta della Consob alle banche, norma che quindi bisognerebbe essere, bisogna intendere come norma vigente nel sistema bancario italiano, è: beh sì, anche se formalmente no, però in realtà sono titoli rischiosi per cui bisogna seguire una procedura rinforzata di informazione, di profilatura del cliente, di accertamento della diversificazione, tutte cose che le banche non fanno. La stessa cosa sta scritta puntualmente nelle istruzioni che l'ABI ha diramato anni fa alle sue banche in relazione a titoli di questo tipo. Allora la mia domanda diventa: ma come vedete, noi le norme le abbiamo e poi facciamo finta che non ci siano? E a far finta che non ci siano sono gli stessi organi di vigilanza, Banca d'Italia e Consob, e l'ABI, associazione invece di banche, che le hanno emesse. E che però oggi, di fronte alle conseguenze di un meccanismo che azzera il valore di quelle subordinate, dicono: no, ma voi avete firmato, lo sapete. Primo esempio. Secondo esempio, per una firma che manca nella notificazione, mancata notificazione del rinvio a giudizio del processo ILVA, l'azienda espropriata dai procuratori in Italia senza indennizzo e nella fase delle indagini preliminari, quindi inaudita altra parte, salta ulteriormente tutto da rifare per il rinvio e per il, a giudizio e per il processo, e passerà un altro anno. Nel frattempo l'ILVA l'hanno vista sequestrata, non hanno un indennizzo e non sono neanche state processate. Questi due esempi per dire le contraddizioni a cui parte e porta il sistema formale della legge. Allora, ho fatto questi due esempi perché vi consiglio di leggere un aureo libretto edito da Bompiani. Sono in tutto 189 paginette che si leggono d'un fiato. L'autore è il professor Michele Ainis, che insegna istituzioni di diritto pubblico all'Università di Roma 3, scrive saggi, non solo scientifici ma anche di facile lettura per i non addetti ai lavori del diritto pubblico, e scrive anche per il Corriere della Sera. Il titolo di questo libro è L'umor nero, e questo umor nero, che è un po' lo spirito di uno scontento di fondo, di una disillusione di fondo, seguendo le mille contraddizioni della legge del diritto santificato, è però quello a cui secondo me ogni tanto bisogna fare appello, in particolare in un giorno come questo in cui io mi ritrovo da giornalista a interrogarmi cosa devo fare. Devo prendere sul serio, perché prendiamo sempre sul serio, è un'istituzione serissima, la Banca d'Italia ha dato un contributo altissimo alla storia italiana, però anche quando abbiamo le carte in mano che ci dicono che sta raccontando una cosa che non sta né in cielo né in terra, e dobbiamo farlo come giornalisti di un grande gruppo editoriale, perché l'ABI dice la stessa cosa e perché la Consob dice la stessa cosa, ma se nelle norme emanate da loro c'è la scritta una stessa cosa, cosa vuoi fare tu, povero giornalistello? Fai la battaglia e ti dicono che sbagli, oppure taci e dici: vabbè, se lo dicono loro ci sarà una suprema ragione che prevale su quella delle norme formali, lo scontro con l'Europa, dite quello che volete. Però io nel mio mestierino quasi tutti i giorni c'ho problemi di questo tipo. Allora, quando mi capita un libro come questo, in cui per esempio, siccome è scritto in forma di alfabeto, c'è una delle voci, quando si arriva alla C il problema diventa certezza, ecco, allora io leggo qui a proposito della certezza del diritto e dico: beh, allora per fortuna che c'è il professor Ainis, che in qualche modo mi dà anche una guida quotidiana. Ho parlato troppo a lungo, professor Ainis, d'ora in poi parla solo lei, grazie di essere con noi oggi pomeriggio. Buonasera, no, grazie per queste parole. Cosa si può dire? No, si può dire che allora, parliamo della certezza. Com'è possibile che il diritto si presuma che voglia fare la certezza? Tutti dicono la certezza del diritto. E lei scrive in un mondo in cui neanche la fisica c'ha più la certezza, le scienze naturali. E quindi che cosa diventa la certezza del diritto? Ma diciamo che le certezze poi non fanno parte della nostra esperienza, no? Quotidiana, la vita è incerta, ci somministra verità parziali, il diritto si esprime come? Attraverso il linguaggio naturale, quello che stiamo usando per questa chiacchierata, e il linguaggio ospita molti doppi fondi, molte ambiguità, deve fare, perché le parole di un vocabolario sono di un numero finito, per quanto molto esteso, mentre i casi della vita, rispetto ai quali ci servono le parole per descriverli, sono infiniti. E allora l'ambiguità è nel codice simbolico, nel linguaggio stesso. Poi, diciamo, a questo ci si aggiunge un un legislatore schizofrenico, per cui in Italia la regola legale è una regola letale, oppure, come diceva Giolitti, si interpreta per gli amici e si applica ai nemici. Ecco, che mi sembra un po' il caso, per esempio, di quello che avviene in questo momento nel mondo bancario, però queste sono opinioni mie. Però è un caso diffuso, per così dire, non è un caso così eccezionale, perché la certezza del diritto, io non lo so se questa certezza, non si potrebbe immaginare un diritto fondato sulla mancanza di certezza? Perché in definitiva il sistema di common law, che si fonda su una tradizione dal basso e sul fatto che è sedimentata pronunzia giurisprudenziale che evolve nel tempo, non è meglio anche per questo? Perché non ha alcuna pretesa di avere certezza se non relazioni ai tempi, alle circostanze, ai contesti sociali? Ma certamente è una tradizione non assolutamente rispettabile. Noi veniamo da una tradizione invece codicistica, quella del diritto europeo continentale, avendola però smarrita, perché quella tradizione lì viene dall'illuminismo e dall'illuminismo giuridico, e quindi dalla legge che si esprime attraverso clausole generali, e quindi tutta la stagione dei grandi codici dell'Ottocento, codice Napoleone, eccetera, eccetera. Ecco, codice Napoleone era quello a cui si ispirava Stendhal quando perdeva appunto la dritta per scrivere una pagina dei suoi romanzi, cioè erano anche scritti in una bella lingua. Adesso mi pare siamo arrivati a normative molto dettagliate, molto specifiche, arzigogolate e tra di loro spesso in contraddizione, e alla fine tu ci leggi quello che ti pare, insomma, in queste norme. Ci fu un libro, no, voglio ricordarlo perché è un libro molto più importante di quello che ho appena scritto io, lo scrisse nel 1942 Lopez de Oñate, che era un giovane filosofo del diritto, e si chiamava La certezza del diritto, questo libro, dove poi in realtà la certezza diventava una sorta di orizzonte che tu non puoi toccare con le mani, però non puoi nemmeno evitare di volgervi lo sguardo. E diceva Lopez, se nel gran mare delle nostre leggi già allora è facile trovare una onda che faccia naufragare l'innocente e magari porta a riva e fa salvare il reo. Ecco, allora un'altra voce che mi è piaciuta molto, Zapping, quella che concludo il volume, è sempre a proposito del fatto di un paese che nell'illusione che con la riforma della legge, con la riforma, quindi cambiando formalmente la legge, il mito delle riforme, mettiamo a posto l'Italia, cosa che io credo fosse, è vero nella sostanza, ma a patto che le riforme intervengano con principi generali su alcuni problemi di fondo. Invece la moltiplicazione di questo mito delle riforme non fa altro che alimentare la produzione legislativa iperspecifica, e siccome quello è un guaio, non è uno. Allora lei dice che questo mezzo delle riforme fa addirittura diventa una specie un mostro che mangia se stesso. Fa un esempio che è divertentissimo, perché dice: il record ineguagliabile spetta la regione Sicilia. Il 31 ottobre 1995 manda in pubblicazione due distinte leggi, delle quali tuttavia la seconda abroga la prima, che perciò è rimasta in vita pochi secondi, giusto quello che servono al lettore per girare pagina. Di qui una continua fonte di incertezza circa il confine tra lecito e illecito, tra le ragioni e i torti. In un'altra voce del suo dizionario, quella che riguarda l'anagrafe, lei dice: facciamo queste riforme di cui, diciamo così, ci riempiamo la bocca, il Jobs Act per esempio, la riforma dello statuto dei lavoratori, e poi lo facciamo però quasi mettendo in secondo piano che lo facciamo solo per quelli nuovi che arrivano, cioè segmentando l'intero popolo al lavoro in corti anagrafiche. Ecco, questa pretesa iperspecifica, da una parte del mito delle riforme che però entrano troppo nello specifico, e dall'altro di usare la legge per segmentare la generalità di coloro a cui si applica, questo era nell'idea di legge e di diritto in cui lei ha studiato quando era un po' più giovane, o è una degenerazione dei tempi recenti? Credo che sia una degenerazione che colpisce poi anche le parole. Io stamattina sul Corriere della Sera è venuto fuori un mio articolo, un mio editoriale, proprio sulle parole e le cose. Tra le parole logorate c'è la parola riforma. Tutti i governi sono riformisti, no? Che tutti i governi hanno il loro protocollo di riforme, di cui poi le annunciano, le fanno, le pasticciano, esempio, io mi piacerebbe trovare un ministro della università, della pubblica istruzione, che dica: beh, io non ho cambiato le leggi precedenti, le ho fatte funzionare, però le ho fatte funzionare, e rifarei un monumento equestre se mai arrivasse. Quindi allora c'è certamente una legislazione che diventa molto spicciola, molto segmentata, e questo non era insomma, l'articolo 70 della Costituzione dice: la funzione legislativa spetta alle Camere. Che vuol dire funzione legislativa? Significa costruire norme generali, astratte, come si insegna nei manuali, cioè che valgono per tutti. Non è così, ci sono anche delle ragioni di fondo per cui diciamo non può essere del tutto come immaginavano gli illuministi, poche leggi semplici, chiare, perché viviamo in società complicate e anche molto frastagliate, però certamente c'è un eccesso. Certamente c'è un eccesso. Allora, ora ci fermiamo per un minuto per l'informazione stradale, poi torniamo e andiamo a un punto di fondo che è la sintesi di questi 20 anni di Seconda Repubblica: non ha funzionato il bipolarismo. Ma con le leggi elettorali, le riforme elettorali, si fa un sistema politico o vale viceversa? Perché noi ci siamo forse un po' illusi sulla prima strada, ma adesso come la pensiamo? Tra un minuto, intanto strade. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati qui con il professor Michele Ainis, che è istituzione di diritto pubblico a Roma 3, perché da alcune contraddizioni quotidiane, facevo due esempi, lo scontro Banca Italia su come si piazzano i titoli con rispetto a chi ci ha rimesso nelle banche, e io credo che ci sono delle norme che non sono state rispettate, non solo in questo caso, oppure secondo esempio la formalità, salta una firmetta sul e quindi salta per l'ennesima volta il rinvio a giudizio del processo IVA, ma nel frattempo però in fase di indagine preliminare l'ILVA è stata nazionalizzata dai PM senza indennizzo. Ecco, idee di giustizia, come vedete, un po' diverse. Allora c'è un libro su che si interroga su questo, L'umor nero, che ha scritto proprio il professor Michele Ainis, è scritto in forma di vocabolario dalla A alla Z, con un bel po' di riflessioncine sulle contraddizioni, punti di forza e di debolezza di molte convinzioni sulla legge e il diritto nel nostro paese. La B è un po', quando si arriva alla B in questo alfabeto, è un po' la sintesi di 20 anni, cioè il bipolarismo. Quindi la Seconda Repubblica doveva superare la prima per efficienza, ordine, doveva vedere un altro sistema politico, eccetera eccetera. E invece che cosa abbiamo imparato, o forse non imparato? Che non basta una legge elettorale per far nascere un sistema politico diverso, è così o no? L'esperienza è questa, noi abbiamo avuto un bipolarismo claudicante, rissoso, con coalizioni ballerine. È vero che ci ha restituito un'alternanza di governi, questo non si può negare, però la stabilità degli esecutivi, poi di varie coloriture, quella no, non l'abbiamo procurata. Forse la procurerà la riforma costituzionale che è in calendario, nel momento in cui viene tolto al Senato il potere di revocare e di conferire fiducia ai governi. Speriamo di non morire di troppa stabilità dopo, però, perché noi l'abbiamo già sperimentata addirittura per 20 anni, un governo stabile. Si riferisce in questo caso all'Italicum, per così dire? Il governo stabile aveva un capo del governo che si chiamava Mussolini a quel tempo. No, infatti, io capivo che il parallelo era un po' in nuce, l'ho tirato fuori. Bene, allora il punto però è che mi pare non si sia acquisito, mentre la parte negativa, per così dire, di questo ventennio, cioè non basta una legge elettorale, un po' è entrato, quello che mi pare non abbia fatto nessun passo avanti o quasi, è l'idea che per cambiare davvero un sistema politico bisogna tenere insieme tre pezzi. Uno è sicuramente il criterio che traduce i voti in rappresentanza, e va bene la legge elettorale. Il secondo è la forma di governo, e lei, questo ha appena fatto l'esempio, ci vuole, speriamo che vada avanti la riforma della forma di governo. Secondo me c'è anche un po' la forma Stato su cui a volte interrogarsi, però o quantomeno se non vogliamo toccare la forma Stato, un terzo pezzo, che è quello fondamentale però, che riguarda i regolamenti parlamentari, perché uno non può avere un sistema maggioritario nella legge elettorale con dei regolamenti parlamentari o dei meccanismi di attribuzione di risorse finanziarie ai partiti che invece sono costruiti sulla frammentazione parlamentare, che premiano e incentivano la frammentazione parlamentare. Secondo lei, con la Costituzione il governo ci sta provando, ma perché in Parlamento, poi sui regolamenti, sul criterio dell'attribuzione delle risorse, il mondo politico continua a ragionare con una testa iperproporzionale? No, mi ritrovo perfettamente in quello che lei diceva, anche la riforma dello Stato, pure su quello si sta intervenendo, restituendo poteri al centro e quindi cercando di eliminare un fattore di disgregazione o comunque di risse, di bisticci che sono state i poteri dati alle regioni nel 2001 con la riforma del titolo V. Dopodiché quello che c'è sotto i nostri occhi in questi due anni di legislatura è una grande transumanza. È una grande transumanza, quindi si sono moltiplicati i gruppi parlamentari, il gruppo misto poi ospita mille anime al suo interno, e gli elettori italiani non hanno tutti i torti a sentirsi un po' buggerati se hai votato per Tizio e te lo ritrovi insomma a braccetto con Caio. No, stamattina noi avevamo il sottosegretario Faraone e ci occupavamo di scuola con lui, alla fine gli ho fatto una domanda, siccome è siciliano e il sottosegretario Faraone, gli abbiamo chiesto ma non l'imbarazza un po' avere il capogruppo del PD all'Assemblea regionale siciliana reduce da 7 partiti in 3 anni? E lui mi ha detto ma no, perché in definitiva ha cambiato gruppi parlamentari, ma appartenevano tutti alla coalizione che oggi si è formata. Dico no, alcuni pezzi ne erano fuori, ma adesso stanno insieme. Dico Faraone, ma vogliamo fare i maggioritari con questo criterio? Non bisognerebbe impedirle queste cose? Adesso so che è una domanda brutale fatta a un professore di diritto pubblico, però non bisognerebbe immaginare che con rispetto per la libertà del parlamentare, se non ti riconosci più nella formazione che sei eletto, libero, ma perdi il seggio e il mandato? È troppo vincolistica un'impostazione così? Ma io credo che invece ci si possa riuscire a tenere insieme le due cose. La prima cosa è il divieto di mandato imperativo, che è la Costituzione, articolo 67, garantisce. Perché lo garantisce? Perché deve esserci la possibilità di una dialettica libera in Parlamento. Se ciascun partito, gruppo parlamentare fosse vincolato alle direttive degli elettori, non si potrebbe far funzionare il Parlamento, perché la democrazia parlamentare è compromesso, diceva Hans Kelsen, e quindi devi poter decidere in base ai numeri della tua maggioranza, ma anche ascoltando le ragioni altrui, recependole quando verga. Però non va neanche bene questo spettacolo. La soluzione, secondo me, è un istituto antico che esiste altrove, si chiama recall, e cioè la possibilità di dare agli elettori la possibilità di revocare il parlamentare che li ha traditi o che semplicemente non fa il suo lavoro. Ci sono dei parlamentari che hanno collezionato il 98% di assenze perché hanno di meglio da fare. Allora tu lo revochi, oppure se invece ritieni giusto che non lo so, un gruppo, una costola si sia staccata dal corpo maggiore per formare un gruppo autonomo, è il caso di Alfano, di altri, allora non li revochi, li confermi, li rilegittimi, però. Allora io la ringrazio di aver fatto questo esempio concreto, il recall. Cose così servono a ridare fiducia e senso, secondo me, alle istituzioni nel nostro paese. Per quello che mi riguarda, io ringrazio e viva il professor Michele Ainis, che al di là dell'insegnamento, della parte scientifica della sua professione eccetera, si sbatte anche la testa contro i lettori e i giornali, perché ricorda che di queste cose qua invece manchiamo nel nostro paese, manchiamo. Leggetevi, e continuo a dirvi il titolo del libro, L'umor nero di Michele Ainis, Bonpiano Editori, cominciando dalla F, la lettera F, fedeltà, e troverete delle parole auree sul fatto che uno Stato che pretende la fedeltà alla Costituzione, cioè a se stesso, è in realtà incapace di ricambiarvela, e questo significa, perché vi fa le leggi retroattive e così via, e questo significa che spesso poi diventa automaticamente incapace anche di pretenderla, e quindi viene meno a se stesso. È l'idea stessa che ci sia uno Stato, per così dire, positivo. Grazie professor Michele Ainis, continuate con Radio 24.